Come si diventa conduttore radiofonico? Quanti tipi di conduttori ci sono alla radio e quali andranno per la maggiore, diciamo così, nel prossimo futuro? Lo chiediamo a una persona esperta nel settore che ha curato tra l'altro l'enciclopedia della radio di Garzanti, ha curato la mostra e il relativo catalogo Radio FM 1976-2006 dedicato ai 30 anni delle radio libere, ed è Peppino Ortoleva, che è in linea con Gio 24. Ben trovato. Buonasera. Allora, noi in una manciata di minuti dobbiamo riuscire a dare qualche idea in più a chi anela entrare in questo mondo, ed è davvero un'impresa, perché la figura del conduttore radiofonico non è così facilmente inquadrabile, perché ci sono i conduttori dei programmi di servizio come può essere Gio 24, i conduttori dei programmi di intrattenimento, di quelli musicali, dei giornali radio. Sì, assolutamente, non solo, ma ci possono essere, e in Italia normalmente sono, i conduttori che sono legati contrattualmente a un emittente, che poi a sua volta può essere un contratto di lavoro dipendente o più spesso un contratto, diciamo, di lavoro indipendente, e ci possono essere i conduttori che sono dei produttori indipendenti, che è un fenomeno molto, molto americano e che in Italia da noi praticamente non esiste. Il più noto conduttore radiofonico americano, Rush Limbaugh, che è famoso come l'uomo della talk radio, si produce i suoi programmi che poi vende e guadagna miliardi prima alle agenzie pubblicitarie e poi alle società radiofoniche. Da noi questa figura non c'è. Da noi il conduttore radiofonico lavora per un emittente, un network, eccetera eccetera. Che cosa fa il conduttore radiofonico? Il conduttore radiofonico è sostanzialmente colui o colei che cuce insieme i diversi materiali che la radio man mano fa arrivare alle orecchie delle persone. Il lavoro del conduttore radiofonico può sembrare simile a quello del conduttore televisivo, ma non lo è, perché mentre il conduttore televisivo sostanzialmente è una figura tra le altre di uno show, il conduttore radiofonico è colui che partecipa attraverso un suo organo solo ma fondamentale, che è la voce, al lavoro della radio che, come diceva un grande studioso, organizza il mondo per l'orecchio. È davvero un mestiere che si può imparare a lezione? In parte sì, si può insegnare tutto e si può imparare tutto anche dalla pratica. Esiste una dimensione, non dico teorica in senso astratto, ma concettuale, problematica, del lavoro del conduttore radiofonico, che anzi dovrebbe essere molto rafforzata, per cui è giusto che sia insegnato all'università. Esiste naturalmente una parte grossissima che si impara solo facendolo, e posso dire anche un'altra cosa: esiste gente che il conduttore radiofonico non imparerà a farlo neanche in 100 anni di esercitazioni e di corsi universitari, perché se non ha alcune caratteristiche anche abbastanza banali e ovvie, una sicurezza e scioltezza nel modo di parlare, una certa confidenza dialogante con il suo prossimo, eccetera, non sarà mai un buon conduttore radiofonico. Però certo, non è il caso di rinunciare a priori all'insegnamento del radio o di altri linguaggi. E c'è spazio per i conduttori la radio, e di quale tipo di conduttore c'è bisogno o ci sarà bisogno in un prossimo futuro? Questo è molto interessante come interrogativo, grazie Roberta, nel senso che quello che sta succedendo alla radio è che, a mio vedere, e voi stessi ne siete un ottimo esempio, è in corso un processo di diversificazione dell'offerta radiofonica. Quindi continuerà a esserci bisogno di conduttori, diciamo, di intrattenimento, sempre più capaci di parlare a un pubblico adulto, che oggi è quello che interessa i pubblicitari, sempre meno conduttori da ragazzini. Ci sarà bisogno moltissimo di conduttori capaci di parlare, di coordinare le notizie, di coordinare l'approfondimento, di coordinare i programmi di servizio come questo a cui stiamo partecipando. Questo è un mestiere in crescita. E poi io credo ci sia bisogno di conduttori giornalisti per l'approfondimento informativo, che sono ancora in buona parte un mestiere che nel nostro paese è da creare. Professor Ortoleva, grazie per essere stato con noi. Grazie infinite.